Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria riguardano da un lato quello che è accaduto nel fine settimana a Genova, noi ve l'abbiamo raccontato anche in diretta, quindi l'apertura da un lato, due sono i temi grossi di politica economica italiana, l'apertura della Confindustria alla CGIL e l'accoglimento di questa apertura da parte del segretario della CGIL Guglielmo Epifani, e quindi insomma vedere se si riesce a far tornare al tavolo delle trattative, come si dice con un po' di retorica, anche la CGIL, e dall'altra invece la critica di Emma Marcegaglia, presidente Confindustria, al governo: il governo deve governare, la pazienza è finita, articolandola meglio, perché in realtà il ragionamento, come avete anche sentito nel nostro GR, è: il governo ha i numeri, è stato legittimamente delegato a governare, deve governare e non perdersi, diciamo, in polemiche che riguardano la lotta politica, delle volte anche a livello quasi personale, e il riferimento è a quanto sta avvenendo in queste settimane, oltre che giorni. Questo per quello che riguarda i temi che tratteremo anche nella seconda ora del programma. Invece oggi è uscito un rapporto della CGIL, sempre dello studio IRES CGIL, sui salari. Di questo parleremo in apertura. Che cosa emerge? Che negli ultimi 10 anni i salari dei lavoratori dipendenti, devo dire che anche noi questa cosa l'avevamo individuata in alcune puntate, e la Banca d'Italia l'aveva detto a suo tempo, dicendo che i salari erano aumentati molto meno nel lavoro dipendente che nel lavoro autonomo. La CGIL ha fatto un calcolo che sono 5.000 euro persi in 10 anni di potere d'acquisto, di cui 3.400 attribuibili a un'inflazione più alta del previsto nel periodo 2000-2010 e altri 2.000 attribuibili invece al fiscal drag, ossia al fatto che se non viene sostanzialmente, se tu guadagni di più nel corso di 10 anni per mantenere il tuo potere d'acquisto, quindi da 50.000 passi a 60.000 euro, in realtà hai identico potere d'acquisto, però se scatta un'aliquota più alta tu paghi più tasse su questo, dovrebbero essere restituite la mancata restituzione di queste tasse in più, diciamo, pagate, vale appunto 2.000 euro dipendente, 2.200 euro dipendente, ossia 44 miliardi di euro in più di gettito fiscale per lo Stato in questi 10 anni. Questi due temi importanti, poi parleremo anche della Banca Centrale Europea, di quanto dichiarato Jean-Claude Trichet, lo faremo dopo i mercati finanziari. Vi anticipo subito che Trichet ha detto, come presidente della BCE, la ripresa è moderata ma resta incertezza, e ha definito comunque appropriato il livello attuale dei tassi, lo ha detto intervenendo al Parlamento europeo, e poi ha chiesto di avere sanzioni per i paesi con scarsa competitività. Bisogna capire che cosa questo significhi. E chiaramente l'Italia non ha una grande competitività, come ricordato anche dal presidente Marcegaglia. Non è vero che qui da noi va meglio degli altri, cresciamo meno degli altri. Polemica, l'abbiamo raccontata anche con il ministro Brunetta, il quale ha detto: non è pensabile che l'Italia cresca come la Germania, non è mai cresciuta come la Germania. Risposta di Marcegaglia: ci riferiamo alla media europea, non alla Germania. La media europea quest'anno sarà all'1,7, noi cresceremo dell'1,1. Se va bene, nessuno si immagina di poter crescere vicini al 3 come la Germania. Ancora i mercati finanziari: l'indice in questo momento è 0,00, non capita quasi mai, questo è un indice praticamente sostanzialmente nominalmente invariato, meno 0,22% Parigi, meno 0,25% Francoforte, meno 0,30% Londra. Poche notizie, possiamo dire anche per fortuna, dai mercati: meno 0,17% l'America. Resta invece molto forte l'euro, che è arrivato anche sopra quota 1,35, poi ne parleremo, e quindi molto debole il dollaro. In questo momento Tokyo rafforza lo yen perché non vuole un dollaro troppo debole, perché non riuscirebbe a esportare. L'America continua a mantenere un dollaro debole perché invece vuole riequilibrare la bilancia commerciale. Il vaso di coccio ancora una volta si chiama euro, nel senso che si è rafforzato molto nei confronti del dollaro senza nessun intervento delle autorità centrali in direzione contraria. I titoli, devo dire, anche qui le variazioni non sono di quelle eclatanti. Il peggior titolo in questo momento è Fondiaria Assai, -1,7, UbiBanca -1,4, Generali -1 come Prismian, e invece Geox guadagna il 4,1, Buzzi Unicem il 3,4, Italcementi l'1,7, 1,5 lo guadagna Finmeccanica e anche Impregilo e Azimut. Lo 0,90% è il rialzo di Telecom Italia, lo 0,80% quello di CIR. 349-238-6666 per i vostri SMS. E adesso le notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dal petrolio, $76,7 al barile, leggero rialzo. L'oro continua a essere a $1,300 l'oncia. L'argento invece continua a macinare nuovi record. Dal 1980 mai così alto, $21,48 l'oncia. Dicevamo dell'euro che intorno a metà giornata è arrivato a quota 1,35 la prima volta da aprile, e questo la dice lunga sulle tensioni a livello valutario. Sul fronte invece dell'affidabilità dei conti pubblici europei, da segnalare oggi che Moody's, una delle agenzie di rating, quelle che danno il voto tra l'altro anche al debito dei paesi, ha abbassato il voto sul colosso bancario irlandese, che in questo momento è un pozzo senza fondo. Mi riferisco a Anglo Irish Bank, l'ha portato da A3 a BAA3, sono tre livelli in meno, tanta roba. Infatti Moody's ha aggiunto che prevede un continuo deterioramento della qualità di tutti gli asset, di tutte le partecipazioni di Anglo Irish Bank, e immagina che il governo irlandese dovrà ulteriormente aiutare la banca, quindi buttare soldi pubblici in Anglo Irish Bank. Ma attenzione, perché l'Irlanda non è la Grecia, questa sembra una frase un po' così, però non è la Grecia, perché l'esposizione delle banche estere nei confronti dell'Irlanda è quasi doppia rispetto a quella delle banche estere sulla Grecia, è 844 miliardi, 5 volte il PIL del paese. Insomma, è un po' come se le banche estere fossero esposte verso l'Italia per qualcosa come 7.000 miliardi di euro. Noi abbiamo un PIL che è 1.500 miliardi di euro, insomma, immaginate un po', anche un po' di più, 7.500 miliardi di euro, una cifra enorme, quasi folle, perché è chiaro che, insomma, avere 500 volte l'esposizione bancaria, le banche straniere hanno prestato 500 volte in più, 5 volte in più rispetto al PIL che l'Irlanda riesce a produrre in un anno, la dice lunga anche sul rischio. Il più esposto come paese nei confronti dell'Irlanda è la Germania, 206 miliardi di euro l'esposizione delle banche tedesche nei confronti dell'Irlanda, e 244, quindi quelle inglesi, che a quel punto sono il numero uno, come era immaginabile, lì ci sono anche partecipazioni incrociate. Questo vuol dire che se la Grecia non poteva fallire, meno ancora può fallire la Irlanda. Però il ministro delle finanze irlandese Brian Leenan ha detto che le banche onoreranno tutti i debiti, e il governo irlandese, questo lo scrive invece il quotidiano Irish Times, dovrebbe pubblicare entro la fine di questa settimana i costi del salvataggio di Anglo Irish Bank. Ancora sul fronte internazionale, dicevamo di cosa sta capitando a livello valutario, però in America arriva la notizia che già avevamo anticipato, devo dire, che il TARP, cioè il mega piano di salvataggio per le banche in difficoltà da $700 miliardi, quello varato dall'ex segretario Henry Paulson, sta andando in pensione, lo stanno smantellando infatti le autorità americane, il prossimo 3 ottobre chiuderà in via definitiva. Adesso facciamo un po' arrabbiare gli ascoltatori. Perché? Perché Tra i principali beneficiari di questo piano di salvataggio delle banche c'è stato il colosso bancario americano Citigroup, che si è beccato 50 miliardi di dollari per restare a galla a suo tempo, se no faceva la fine di Lehman Brothers. 50 miliardi di dollari sono praticamente 5 manovre finanziarie italiane dei contribuenti americani, che hanno aumentato il deficit americano, che lo hanno portato assieme ad altri al 14%. Ebbene, volete sapere quanto beccherà in 3 anni uno degli ultimi arrivati in casa Citigroup? C'è un banchiere, si chiama Steven Trauber, proviene da UBS, arriverà entro fine dell'anno a Citigroup per la modica cifra di 30 milioni di dollari. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E devo dire che il vizio viene anche lasciato al lupo dall'assenza di nuove regole in America e a livello anche internazionale. L'Europa un po' ci sta lavorando, ma insomma, lì Barack Obama è in estrema difficoltà e il suo ministro del tesoro Timothy Geithner non può aiutarlo intellettualmente. Proviene da quel mondo e in quel mondo tornerà, e tutti teniamo famiglia anche a Wall Street e anche alla Casa Bianca. Però il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi oggi, al termine di un meeting del Financial Stability Board, ha detto, insomma, ci sono importanti passi avanti su nuove regole nella finanza, e ha aggiunto che Basilea 3 non frenerà la ripresa. Comunque lo vedremo, mancano più di 10 anni all'implementazione di Basilea 3. Due notizie in breve dall'Italia invece. Le rimesse degli immigrati che vivono in Italia verso l'estero sono da record, lo ha rilevato l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Praticamente 1.540 euro il valore di ogni rimessa che gli immigrati mandano dall'Italia verso i loro paesi di origine. È 7 volte superiore alle rimesse, alla media internazionale di quanto versano gli immigrati da un paese verso il paese di origine. Praticamente lo scorso anno il volume complessivo è stato di 210 milioni di euro, 92.000 operazioni. Ma sono aumentati, pur in un contesto di crisi, anche i conti correnti in Italia che sono intestati agli immigrati. Sono passati da 1.400.000 a 1.500.000, più 8%. Giusto per non parlare di immigrazione sempre come criminalità, reato e quant'altro, quella fa notizia, ci mancherebbe, però 1.500.000 di conti correnti vuol dire una comunità che dal punto di vista perlomeno economico stabilmente integrata. L'arresto per Callisto Tanzi, lo ha chiesto oggi, lo avete già sentito nei nostri GR, il procuratore generale di Milano, il motivo molto semplice: pericolo di reiterazione del reato o di fuga. Volete sapere cosa succede con l'Expo? Allora, tra pochissimo la Commissione Internazionale dovrà valutare se Milano è messa bene con l'Expo. Auguri. Perché, insomma, ancora i terreni non ci sono. Il Presidente della Regione Lombardia, alla luce della lettera di sollecito che Expo 2015 SPA invierà ai soci per dirimere il nodo dei terreni su cui sorgeranno i padiglioni, mancano ancora i terreni. Ebbene, Formigoni ha detto che ci sono anche altre soluzioni sul tavolo, da quella dell'acquisto attraverso una società pubblica, quella di un comodato d'uso attraverso Fiera Milano, fino all'estrema razio dell'esproprio. Se è così, se deve andarci di mezzo l'intera Expo, si può anche arrivare all'esproprio, se non si mettono d'accordo, visto che poi è solo un problema di soldi, di quanto ci possono guadagnare. Se non si mettono d'accordo i proprietari dei terreni da un lato e l'ente Expo dall'altro. Allora, partiamo col primo tema. Anche qui vedo già molti messaggi al 349-238-6666. Il calo del potere d'acquisto misurato oggi da uno studio del CGIL. Quanto hanno perso? Allora, chiaro che la fonte è la CGIL, per cui è fonte attendibile come altre, ma insomma sta dalla parte, diciamo, del lavoratore dipendente. Però attenzione, perché il calcolo dell'IRES è stato fatto in maniera addirittura con i decimali: 5.453,2 euro il potere d'acquisto in 10 anni, che è venuto meno. Perché questo per via dell'effetto, da un lato, dell'inflazione programmata, che è quella su cui poi si basano gli aumenti. Poi è previsto che la differenza tra inflazione programmata e inflazione reale venga recuperato. Fu previsto quando si abolì la scala mobile, no? Così non sempre avviene. E dall'altro l'effetto invece del cosiddetto fiscal drag, ossia il fatto che se non cambiano, se non vengono aggiornate le aliquote, passare da 50.000 a 60.000 euro nell'arco di 10 anni ti porta a un'aliquota più alta, ma tu in realtà di fatto guadagni lo stesso, perché stai solo recuperando il potere d'acquisto, no? In questi 10 anni. E infatti Guglielmo Epifani, che poi sentiremo invece per la parte che riguarda le relazioni industriali, l'apertura alla Confindustria, lo sentiremo nella seconda ora, ha detto su questo, presentando un rapporto, il segretario della CGIL: occorre subito un riequilibrio fiscale a favore dei salari. Il peso si è spostato dai salari ai profitti e dai profitti alle rendite. Quello che emerge è che proprio il bene che è più scarso, cioè il bene lavoro, oggi viene tassato di più di altre fonti di reddito che invece stanno crescendo. Quindi c'è il problema di riequilibrare il peso del prelievo fiscale, un grande tema per il Paese, che non può essere rimandato alle calende greche, ma va affrontato in tempi necessari, perché se non si fa nulla, da qui a 3 anni il prelievo fiscale sui lavoratori tenderà ancora ad aumentare. Avremo bisogno di una svolta nella politica economica e sociale, perché abbiamo di fronte a noi due grandi problemi. Uno riguarda la dinamica delle retribuzioni e delle pensioni, e l'altro riguarda l'occupazione e lo sviluppo, perché tutti i dati più recenti ci confermano che il Paese esce dalla crisi peggio degli altri Paesi e con dei tassi di disoccupazione che tenderanno ad aumentare. Allora, adesso parleremo di questa ricerca. Due note però. Il dibattito peggio, meglio degli altri Paesi, secondo me l'ha chiuso molto bene Marcegaglia venerdì, l'abbiamo fatta anche ascoltare dai nostri microfoni in diretta da Genova. Perché? Perché insomma, io non so se abbia chiuso peggio, come dice Epifani, sicuramente non ha chiuso meglio. Voglio dire, l'Italia è nel mainstream dei vari paesi europei. Continuare a dire che l'Italia si è mossa meglio è solo operazione politica, per favore. Cioè, il PIL è calato come nei peggiori paesi, meglio ha fatto la Francia, la disoccupazione è un po' meglio, ma senza considerare la cassa integrazione. Il recupero nostro è sotto la media europea, allora non diciamo peggio, ma non diciamo neanche meglio, diciamo che abbiamo un bel po' di problemi anche noi. Se andiamo a crescere all'1,1% quest'anno e la media europea fa più 1,7, ci manca mezzo punto percentuale per fare quello che fanno gli altri, non la Germania, gli altri, Spagna, Irlanda, Austria, gli altri. Una risposta al volo invece a un ascoltatore che dice: le rimesse degli immigrati, che sono 7 volte superiori alla media, sono dovute tutte, sono le rimesse degli spacciatori. Sì, forse anche quelle, ma anche magari quelle della sua tata, della sua donna delle pulizie, della sua badante, di chi lavora nella sua impresa, no? Vabbè, non partiamo subito in polemica e cerchiamo di capire come si sono avuti questi 5.400 euro di calo nel potere d'acquisto del lavoratore dipendente, pubblico e privato. Poco importa, siamo in collegamento con il presidente della IRES CGIL che ha condotto e realizzato questa ricerca, Agostino Megale. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, diciamo che in questi anni, raccontando anche l'economia da questi microfoni, ci eravamo accorti che l'inflazione reale fosse, pur con molte polemiche con l'Istat, devo dire, fosse stata più alta di quella ufficialmente registrata. Voi dite, il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori dipendenti italiani è calato in 10 anni di 5.000 euro, e vorrei sapere se al netto dell'inflazione o all'ordo dell'inflazione. E poi vorrei capire che cosa ha contribuito nella vostra ricerca a questo calo di 5.400 euro. Guardi, i salari contrattuali nel decennio sono cresciuti leggermente sopra l'inflazione. Anche i salari lordi di fatto, alla fine del periodo hanno una crescita di 2,5 punti. Il problema si è posto nel 2002-2003, quando l'allora governo Berlusconi programmò l'inflazione all'1,5, l'1,4%, con l'inflazione al 3 e al 2,7, lì i salari presero una botta di circa 2.500 euro nel primo anno, 3.000 nel secondo, e arrivarono ad una perdita che superava i 5.500 euro. Negli anni successivi i contratti ne hanno recuperato un pezzo di quella perdita, ragionando più sull'inflazione prevista reale che non su quella programmata, ma alla fine non sono riusciti a recuperare il tutto, e anche considerando il fatto che vi è stata la mancata restituzione del fiscal drag per 2.000 rotti euro, si sommano 3.400 euro persi per quel biennio che definiamo il biennio che ha sostanzialmente falcidiato i salari, più la mancata restituzione del drenaggio fiscale. Il risultato nei 10 anni sono circa 5.500 euro, che hanno voluto dire togliere 44 miliardi dal salario, dal monte salari globali dei lavoratori dipendenti, avendo pagato più tasse per un 13%. Ovviamente sia questo dato che quello sul fisco sono dati cumulati, cioè che si sono andati determinando anno su anno, e sommando le perdite si produce questo esito. Allora, quindi 44 miliardi di maggiori entrate per lo Stato, questo però è come effetto del fiscal drag? Oh. Questo è come effetto del fiscal drag e anche dell'ultimo biennio, in cui, pur avendo un'inflazione sotto il 2, quindi non scatta il fiscal drag, ma la pressione fiscale è aumentata lo stesso di 1,02 sul lavoro nel 2009 e di 1,02 nel 2010. Allora, chiarisco, il paradosso che abbiamo è che sono aumentate le tasse dello 0,4 negli ultimi due anni, con salari, diciamo così, ridotti all'osso e con inflazione così bassa. Allora, vediamo di capire, perché alcuni scrivono al 349-238-6666. Dunque, fiscal drag vuol dire sostanzialmente questo, il drenaggio fiscale. Che se tu stai in un'aliquota, poniamo di l'aliquota al 43%, e questa viene, o anche aliquote diverse, questa è calcolata su un certo ammontare nominale di soldi. Poniamo, guadagni 50.000 euro e quindi vieni calcolato sull'aliquota alta. Nel frattempo, se non vengono riaggiornate queste tabelle, è chiaro che 50.000 euro guadagnati 8 anni fa non sono 50.000 euro guadagnati adesso, perché di mezzo c'è l'inflazione. Poniamo che ci sia un 10% di inflazione, che è anche essere buoni, e anzi, insomma, con l'inflazione al 2%. L'inflazione nel decennio è stato circa il 25%. Il 25%, esatto. Per cui sostanzialmente io ho un aumento salariale nel decennio che mi porta più in alto come aliquota, anche se come potere d'acquisto in sostanza guadagno sempre la stessa cosa, perché dovrei calcolare il 25% di inflazione in mezzo. Solo che se tu non aggiorni le tabelle, se io da 50.000 passo a 70.000 euro o 60.000 euro, ho un'aliquota più alta, ma in realtà i 60.000 euro di adesso equivalgono a i 50.000, non è proprio così, insomma i 62.000 euro di adesso equivalgono ai 50.000 di 10 anni fa. E quindi, prego. I salari oggi, nel 2010, valgono qualcosa in meno di quanto valevano nel 2000. Fatto 100 il salario del 2000, oggi il potere d'acquisto è 98,5. Vuol dire che le persone possono comprare qualcosa in meno e non qualcosa in più. E bisogna ricordare che questo dato del fiscal drag si determina quando l'inflazione supera il 2%. Sì, quando sì. L'inflazione supera il 2%, per mantenere quell'equilibrio che lei ricordava, evitando che, scattando l'aliquota superiore, uno paghi più tasse e quindi prenda di meno, la restituzione del drenaggio fiscale dovrebbe compensare questo elemento. Certo. Quando è sopra il 2%. Non essendo stata restituita per tutti gli anni in cui l'inflazione è stata sopra il 2, ma avendo avuto anche un incremento delle tasse negli ultimi anni in cui l'inflazione è stata sotto, il risultato sono quei 44 miliardi in più pagati di tasse, certo, dai lavoratori dipendenti. In sostanza è quando le aliquote, possiamo dire brutalmente, non vengono aggiornate a quello che è il tasso di inflazione, per cui è chiaro che 60.000 euro guadagnati adesso sono diversi da 60.000 euro guadagnati 10 anni fa. Se tu nel frattempo hai avuto un aumento e entri in una nuova fascia di aliquota, in realtà hai lo stesso potere d'acquisto, però paghi più tasse. Questo è il fiscal drag. Detto ciò, un'ultima domanda, dottor Megale, riguarda l'euro, perché voi dite, insomma, il periodo 2002-2003 il governo fissò l'inflazione programmata, che è quella su cui poi si vanno a fare i rinnovi e gli adeguamenti di salari, a un livello 1,4% e l'inflazione risultò molto più alta, al 3%. Ma lì l'effetto non è per giustificare il governo, ci mancherebbe, ma insomma non fu anche l'euro, cioè nessuno immaginava che l'introduzione dell'euro avrebbe portato a rincari così alti, soprattutto nei prodotti a più largo consumo? Senta, io so che se noi in mezzo a questa crisi non avessimo avuto l'euro, ci saremmo trovati in una condizione di maggior difficoltà, sia rispetto alla tenuta pur difficile del potere d'acquisto, sia rispetto all'economia più in generale. Certo, in quel momento, nel 2002, non avendo operato con compiutezza una trasposizione tra il prezzo in lire e il prezzo in euro, è una cosa risaputa che molti prodotti si sono automaticamente trasformati 1.000 lire, 1 euro, con la spinta verso una dinamica inflattiva e di perdere potere d'acquisto reale. In altri paesi come la Germania o la Francia questo non è avvenuto, quindi in effetti ci doveva essere un maggior controllo che in Italia non c'è stata, ma non direi che il capo d'accusa va verso l'euro, d'accusa va semmai per non aver affrontato compiutamente. Allora, no, era per dire che quando il governo fissò l'inflazione all'1,4% ci poteva anche stare, perché era un dato, diciamo, da cui venivamo e aveva anche un senso. Nessuno immaginava, e lì forse è la critica, che il mondo, possiamo dirlo senza avere troppe accuse, il mondo del commercio in senso lato ha operato in molti casi un passaggio 1.000 lire, 1 euro, o ci si è arrivati molto vicino, e lì andavano controllati anche, come noi chiedemmo a suo tempo, magari anche fiscalmente gli introiti, e lì il mancato controllo portò poi di fatto un'inflazione sui beni a largo consumo più alta e quindi a rendere irrealistica quell'inflazione programmata all'1,4%. Grazie Presidente dell'IRES Agostino Megale. Arrivederci. Vedo molti sms, adesso però abbiamo sul tema, chiaramente, adesso abbiamo il metro, la pubblicità, dopo rispondiamo anche alcuni sms e poi la borsa che ha chiuso invariata, quindi oggi ce la caviamo con un commento abbastanza rapido, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:41, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare adesso la borsa, poi sentiremo le dichiarazioni di Marchionne dopo l'apertura che è arrivata a Genova, o da Genova, tra Confindustria e CGL, e anche Marchionne che ragiona sul ruolo della Fiat, e poi il tema, insomma, di che cosa vuol dire anche chiedere al governo di fare e dire che la pazienza è finita, tema politico o tema di carattere economico. Una precisazione, vedo molti messaggi sul calo del potere d'acquisto. C'è un ascoltatore che dice: come fate a invitare la CGL per discutere di economia? Allora, se il dato arriva dalla CGL, dall'IRES CGL, invitiamo chi il dato l'ha proposto. Questo si chiama giornalismo, piaccia o non piaccia, senza censure. Quando, come dovrebbe essere, tra poco arriverà anche uno studio del Centro Studi Confindustria su questo, daremo come sempre anche il dato del Centro Studi Confindustria. Continua l'ascoltatore: caro lei, la inviterei a non fare lo spiritoso sulle rimesse degli stranieri. Lei ha detto sono anche quelle dello straniero che lavora nella sua azienda. Come si permette di rivolgersi così senza sapere con chi parla? E poi le rimesse degli immigrati sono ricchezza prodotta qui che va via. Allora, rispondevamo all'SMS di chi ha scritto sono le rimesse degli spacciatori, usando un giudizio quantomeno razzista nei confronti degli immigrati, e abbiamo detto attenzione, sono anche le rimesse della sua inteso come ascoltatore badante magari della sua tata per il bambino, della donna che viene a pulire casa sua, dell'immigrato che magari lavora nella sua azienda. E il fatto che le rimesse siano ricchezza prodotta qui che esce, d'accordo, mi fa un po' specie che l'ascoltatore in questione noti solo le rimesse degli immigrati, cioè i soldi degli immigrati che tornano nel paese d'origine, e quella ricchezza che esce. Invece i 100 miliardi di scudo fiscale che erano usciti in Lussemburgo, Svizzera, nei paesi fiscali che sono rientrati con lo scudo, quella non era ricchezza prodotta qui che usciva? Borsa. Poi gli italiani sulla far supportare all'estero la ricchezza sono dei maestri, ma abbiate pazienza, per favore. Ah, per favore, veramente, sarà il raffreddore, ma certi sms sono veramente così, da un altro mondo. È sempre colpa dell'immigrato che versa 1500 euro, quando invece noi portiamo in Svizzera centinaia di miliardi di euro, quello va bene, non è, quella non è ricchezza prodotta qui. Dai, la borsa che è meglio, Geox più 3,70, Buzzi Unicem più 3,5, Italcementi più 1,70, Finmeccanica più 1,5 come Impregilo, Azimut più 1,3, CIR più 1%, A2A più 0,80 come Eni. Mezzo punto percentuale Telecom Italia. Questi rialzi, i cali, Fondiaria meno 1,80, Ubibanca meno 1,50, e Mediolanum meno 1,1 come Prismian, Generali meno 1%, Banco Popolare meno 0,90 come Mediobanca. Indice invariato Milano, peggio ha fatto Parigi meno 0,40, Francoforte meno 0,30 e Londra meno 0,40 anch'essa. Il Dow Jones perde lo 0,3% in questo momento. Come sempre il commento con i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, qualche realizzo sui finanziari. Partiamo da Fondiera Sai però. Sì, su Fonsai ci sono i timori da parte degli operatori di Piazza Affari per una mancata distribuzione di dividendo 2010, quindi l'anno prossimo, nel 2011, timori alimentati da indiscrezioni di stampa nel corso del weekend, secondo le quali Fonsai non riuscirà a distribuire un dividendo se non riuscirà a realizzare consistenti operazioni straordinarie di vendita. Ricordiamo che la compagnia controllata da Eli Gresti è impegnata in questo momento nella cessione del polo assicurativo Liguria Sasa. Ecco, secondo queste indiscrezioni, se non ci riusciranno a essere queste dismissioni anche grosse, il conto economico alla fine non riuscirà a sostenere una distribuzione di dividendi. Ricordiamo al proposito che quest'anno la compagnia ha chiuso in forte perdita e distribuito i dividendi solo grazie all'utilizzo delle riserve. Ancora sui titoli oggi in borsa, sentiremo Marchionne fra un attimo, anzi l'ipotesi della Ferrari in borsa non l'ha smentita, la Fiat tutto sommato resta debole. Partiamo dal dato di borsa e poi dopo le informazioni sul traffico sentiremo anche le dichiarazioni di Marchionne. Fiat meno 0,36%, scusate. Una Fiat non brillante, ma comunque meglio del settore auto europeo che ha perso terreno. Ricordiamo che venerdì il settore auto in Europa era andato molto bene, aveva guadagnato quasi 3 punti lo Stoxx europeo. Oggi quindi Fiat sostanzialmente ha tenuto botta rispetto ai competitori europei. Questo probabilmente grazie anche alla prospettiva di una quotazione della Ferrari, che come sappiamo potrebbe beneficiare anche il lingotto, insomma. Insomma, se non ne beneficia la quotazione della Ferrari, si è messi male. Vabbè, poi ha anche vinto ieri. Il traffico di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ancora qualche titolo, Geox più 3,70, ripeto, oggi la borsa non è che abbia offerto chissà che spunti, non troviamoli per forza, quindi Geox più 3,70. Sì, diciamo su Geox non ci sono motivi particolari, gli operatori segnalano più che altro l'agosto nero che ha vissuto la società che produce insomma calzature in tutto il mondo, ha perso nelle prime 2 settimane di agosto più del 16%, da quel momento piano piano, complice anche alcune promozioni tenute sul mercato, sono tornati anche gli acquisti. Insomma. Allora, continua invece l'effetto Lodo Mondadori per il titolo CIR, quindi Carlo De Benedetti, più 1%, riconosciuto più basso, ma sempre di 500 milioni di euro il danno. Ancora 3 milioni in assoluto, AF più 13%, Sopaf più 12,5% e la Lazio più 11%, risanamento più 8,8%. Il peggiore PMS dopo la corsa delle scorse settimane, meno 14%, BCE Team meno 5,21%, Banco di Desio meno 5,1%, Sopaf. Sopaf è un nuovo rimbalzo. Ci ricordiamo venerdì aveva perso parecchio terreno sull'annuncio di fatto della ristrutturazione del debito con le banche per 130 milioni, realizzi, oggi invece sono tornati gli acquisti. In questo caso mi sembra più che altro speculazione, se posso esprimere un giudizio. Sì, no, certo che lo puoi esprimere, sei in collegamento apposta. Grazie a Ceo Condina da Radio Corriere Sole 24 Ore. Parliamo adesso di Fiat. Vedo che il tema delle rimesse degli immigrati ha creato un diluvio di SMS. Attenzione, insomma. Alcuni scrivono, beh, zero immigrati, zero disoccupazione. Allora torneremo a fare una puntata su questo, perché evidentemente alcuni meccanismi non sono chiari, a meno che non vogliamo sostenere che tutti gli 8,5% di disoccupati è gente che non riesce a trovare lavoro da cuoco, da pizzaiolo, da badante, da colf, ma per favore. E ancora alcuni dicono non risponda a certi SMS. No, rispondiamo proprio a certi SMS, perché se c'è qualcuno che ha una convinzione e ha il diritto ad averla, che le rimesse degli immigrati da 1500 euro siano un danno di una ricchezza prodotta qui e mandata magari in Marocco, nelle Filippine, in Sud America, invece diciamo tutti le centinaia di miliardi portati in Svizzera, in Liechtenstein, quelli vadano bene, ecco, allora glielo spieghiamo. Va bene, la Fiat, dichiarazione di Sergio Marchionne. Oggi ha detto la Fiat può avere un effetto, riferito alle relazioni industriali, al modello produttivo, alla richiesta di maggiore competitività, può avere un effetto positivo per il paese, può avere anche un effetto, diciamo, in qualche modo guida, ma non si chieda troppo alla Fiat, e non si chieda alla Fiat quello che la Fiat non può dare. Sentiamo. La Fiat è un'azienda seria, gestita da persone serie. Il nostro sviluppo è radicato su valori forti, sull'onestà, sul rispetto e sul senso del dovere. E questa etica di business è stata la chiave della rinascita che ha strappato il gruppo dal fallimento al quale sembrava destinato nel 2004. E oggi non abbiamo nessuna intenzione di cambiare il nostro comportamento o di pregiudicare il cuore della nostra azienda. Fabbrica Italia è nata da questa mentalità. La Fiat opera in Italia da più di un secolo e conosce questo paese meglio di qualunque altra azienda. La Fiat ha la possibilità di accompagnare l'Italia verso un cambiamento profondo e di qualità. La nostra disponibilità è ampia, il nostro progetto e gli obiettivi che si pone sono di grandissimo valore. E il modo con cui vogliamo realizzare tutto ciò è lo stesso di sempre, parla di un impegno attento e responsabile. In questo senso credo che la FIA sia un'industria che possiamo usare come strumento per compiere una svolta storica. Possiamo usarla per ridare all'industria dell'auto italiana e alle centinaia di migliaia di persone che direttamente o indirettamente dipendono da essa un futuro molto più sicuro. Usiamo la Fiat per questo e solo per questo. Non abusiamo di lei per fini politici. E allora, ci piace Marchionne? Sì, a noi tutti i manager che risanano le aziende piacciono, poi mettiamo in evidenza anche quando c'è qualche incongruenza, ma insomma possiamo dirlo che averne di Marchionne e anche di Bondi, Bondi inteso come il numero uno della Parmalat, quello che l'ha risanata, non parliamo di politica. Va bene, Marchionne però sull'apertura che è arrivata a Genova, Emma Marcegaglia ha aperto la CGIL, ricambiata, si torni a sedersi al tavolo, siccome molte tensioni aveva creato il nuovo modello contrattuale proposto della Fiat a Pomigliano, diverso dall'accordo firmato, e che va a Porto Federmeccanica a dire no, non vale più quell'accordo lì, valgono i nuovi accordi, perché sta cambiando il mondo. La Fiat ha avuto questo ruolo, piaccia o non piaccia, di apripista nel dire attenzione, siamo una fabbrica globale, non possiamo ragionare solo con i temi italiani. Ripeto, al di là del giudizio che uno non ne dà, sentiamo il giudizio di Sergio Marchionne sull'apertura arrivata a Genova nel fine settimana. La somma delle non scelte del passato, la mancanza di condizioni di competitività minime, specialmente nel mezzogiorno, un livello di investimenti esteri che è il più basso in Europa, il numero crescente di imprese che chiude e abbandona l'Italia. Tutti questi problemi insieme ci spingono a mettere mano alla situazione, a fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Non è facile creare o mantenere qui un'attività produttiva. Lo sapete bene voi, lo sa bene anche la Fiat. La situazione in cui ci troviamo in Italia è estremamente seria. La scelta che si impone oggi è tra fingere che va tutto bene oppure intervenire per assicurare al nostro Paese la capacità di competere in un mondo globale. Da ciò che decideremo dipende il nostro futuro. Quello che è successo lo scorso weekend a Genova, al convegno della Confindustria, è un'apertura che io giudico molto positiva. Sono sempre stato convinto che sulla strada del dialogo costruttivo che si devono affrontare i problemi e che si possono trovare le soluzioni. Ripartire dal confronto, da un impegno che veda coinvolte tutte le parti sociali è un segnale di grande speranza per il nostro Paese. Così appunto il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne, a Roma, l'assemblea dell'ANFIA, che è l'associazione che riunisce i produttori di componentistica auto. Dopo il GR parleremo sia di quello che è venuto a Genova in termini di apertura della CGIL, ma anche e soprattutto di critica all'azione del governo, perché lì c'è stato un po' di confusione, poi si è aggiunta l'Italia Futura di Luca di Montezemolo. Chiariremo il tema per capire insomma che cosa vuol dire chiedere al governo, dire al governo che la pazienza è finita e chiedere che il governo governi. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche del ministro dello sviluppo economico che ancora manca. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Arriveremo anche al tema del che alcuni hanno voluto leggere in chiave politica, ma ripeto, politico non è, della richiesta al governo arrivata nel fine settimana da Confindustria, dalla Presidente Marcegaglia. La pazienza sta finendo, il governo deve governare, anche perché come vi hanno raccontato i nostri GR è uscito, non c'entrano le due cose, c'entrano come contenuto, una lettera della CEI che insomma è preoccupata per la situazione, in questo caso sì, politica del paese. Comunque andiamo con ordine. La Banca Centrale Europea, oggi il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet è intervenuto al Parlamento dell'Unione Europea e ha detto: prima occorre rafforzare le banche e poi pensare a un'eventuale tassa sulle banche. Poi ha aggiunto, sul fronte sempre economico, c'è una ripresa che è moderata ma resta l'incertezza, e questo l'avevamo capito anche noi, e ha, questo invece forse più importante, ha aggiunto che l'attuale livello dei tassi all'1% resta appropriato, e poi ha chiesto che i paesi dell'Unione Europea si concentrino sull'alto debito e ha anche ipotizzato sanzioni per i paesi con scarsa competitività. Allora sentiamo prima Trichet sul livello dei tassi di interesse. Dall'ultima audizione di giugno, i dati sull'economia della zona euro sono risultati migliori di quanto previsto allora. Ci aspettiamo che la ripresa continui con un passo moderato, anche se permane una costante incertezza sull'intero scenario. L'attuale livello di inflazione è in linea con le nostre attese, anche se guardando avanti, nel breve termine potrebbero esserci dei leggeri aumenti. Dovrebbe però rimanere moderata in un orizzonte di medio termine. I rischi per questo scenario sono ancora leggermente al rialzo, ma le attese circa l'inflazione rimangono in linea con la nostra definizione di stabilità dei prezzi. La nostra analisi conferma inoltre che le pressioni inflazionistiche nel medio termine rimangono contenute. Visto il moderato sviluppo dei prezzi e il fatto che le aspettative sull'inflazione sono ben ancorate, l'attuale livello dei tassi ci sembra appropriato. E poi, come ricordavamo, questo annuncio che ancora non riusciamo a capire completamente, ammetto la nostra incapacità, dire attenzione, la progressiva perdita di competitività dei paesi della moneta unica è un fattore di instabilità, per cui serve un sistema di sorveglianza che corregga gli squilibri attraverso sanzioni e incentivi. The new framework should be well targeted, notably on countries with. La riforma del patto europeo di stabilità e di crescita deve essere ben orientata, soprattutto verso quei paesi con alti livelli di debito e perdita significativa della competitività. I livelli dei debiti pubblici e l'evoluzione dei deficit possono essere fonte di instabilità finanziaria e possono contagiare gli altri membri dell'euro. Per questo il debito deve avere un ruolo rafforzato nella sorveglianza sui conti, sia nel braccio preventivo che in quello correttivo del Patto europeo di stabilità e di crescita. La progressiva perdita di competitività nei paesi della moneta unica è un fattore di estrema instabilità, perciò serve un sistema di sorveglianza che corregga gli squilibri. Dal momento che le debolezze dei paesi dell'euro hanno un impatto diretto su tutti gli altri della zona euro, un elemento indispensabile del meccanismo di sorveglianza deve essere un sistema graduale di incentivi e sanzioni. Ed è su questo che vorremmo capire di più, magari ce ne occuperemo nei prossimi giorni, che sanzioni si possono dare a un paese per scarsa competitività, come si misura la scarsa competitività, con la produttività, col PIL, con gli investimenti. È abbastanza così, ambiguo. Dopodiché, secondo noi la BCE dovrebbe dare anche sanzioni alle banche, ma sulle banche dice meglio che prima si ristrutturino e poi faremo la tassa. Va bene così. Cambiamo invece tema e occupiamoci delle richieste che sono arrivate dagli industriali nel convegno di Genova e anche dalle aperture che sono arrivate dagli industriali nel convegno di Genova. Emma Marcegaglia, ve lo facciamo risentire sull'apertura alla CGIL. Noi vogliamo andare avanti, vogliamo farlo con tutte le parti sociali, lo vogliamo fare con tutti i sindacati e lo vogliamo fare anche in un ambito più ampio. E qui torno al tema che è stato toccato all'inizio. Noi vogliamo parlare di contratti, ma vogliamo parlare anche con gli altri sindacati, con gli altri datori di lavoro, di un progetto di riforme più ampio. Credo che in un momento difficile come questo unirsi, lavorare insieme su una logica di riforme per ridare una prospettiva di crescita di medio termine al nostro Paese è un obiettivo fondamentale. Ed è proprio per questo che abbiamo invitato per il 4 ottobre tutte le altre associazioni che rappresentano imprese e tutti i sindacati, CGIL, CISL, UIL e anche altri sindacati, proprio per condividere insieme un'agenda di riforme. Un'agenda di riforme, noi abbiamo le idee piuttosto chiare, ma anche dai discorsi che ho sentito fare qui da Bonanni, ma anche da Angeletti, anche da Epifani, credo che ci sia una forte condivisione. Noi vogliamo parlare di ricerca, vogliamo parlare di scuola, vogliamo parlare di merito, vogliamo parlare di burocrazia, vogliamo parlare di energia, vogliamo veramente fare, come diceva prima Bersani, una sorta di patto sociale per le riforme, ampio, che possa veramente vedere tutto il fronte delle imprese e dei lavoratori uniti a spronare la politica a fare realmente le cose. E da lì poi anche l'apertura, vediamo di capirci, quando si parla di relazioni industriali le aperture sono sempre da leggere anche tra le righe, ma insomma l'apertura arrivata dalla CGIL di Guglielmo Epifani, che ha detto sì al dialogo ma se si fa seriamente. E poi non deroghe ma regole, questo riferito alle deroghe chieste al contratto nazionale della Fiat su Pomigliano d'Arco. E questo è il rapporto, diciamo, che va sotto il nome di relazioni industriali. Poi c'è il fronte politico, e il fronte politico è un po' diverso, perché molto si è scritto e si è detto sulla frase di Emma Marcegaglia, che ha detto insomma la pazienza sta finendo, chiediamo al governo di fare. Di questo parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Noi siamo entrati in questa estate in un cono d'ombra della politica, siamo entrati in una situazione in cui c'è una nebbia che si fa sempre più fitta. Il governo deve andare avanti, deve governare, deve fare quello per cui è stato chiamato dai cittadini che l'hanno votato, bisogna farlo subito. Noi però diciamo, tutto il mondo dell'impresa e i cittadini stanno esaurendo la propria pazienza. Così Emma Marcegaglia da Genova sabato. Frase che ha creato, come era immaginabile, molte reazioni politiche e anche altre reazioni che sono state lette in maniera più politica. Per esempio quelle di Italia Futura, che è l'associazione di Luca Cordero di Montezemolo, che ha sferrato un duro attacco ieri a Umberto Bossi e al governo. Un articolo firmato da Carlo Calenda e Andrea Romano ha detto, insomma, la Lega Nord si limita a lanciare proclami e provocazioni ma non ha fatto niente di concreto per il paese, difatti se ne sono visti ben pochi, se non la corresponsabilità della Lega in questi 16 anni di non scelte che hanno portato il paese ad impoverirsi materialmente e civilmente. Allora vorrei chiedere, insomma, che cosa ne pensa a un esponente del mondo delle imprese che ha una lunghissima storia anche confindustriale, attualmente è il presidente di Federchimica e quindi l'associazione che riunisce tutte le industrie della chimica, Giorgio Squinzi, buonasera. Buonasera. Allora ci aiuti a capire, perché lei oggi tra l'altro ha fatto alcune dichiarazioni, in sostanza quando la vostra presidente dice la pazienza è finita, il governo deve governare, è una richiesta di carattere politico o è una richiesta di carattere imprenditoriale? Ma direi che è soprattutto di carattere imprenditoriale dal mio punto di vista. Noi abbiamo bisogno veramente di un governo che metta mano a tutta una serie di investimenti per il rilancio del paese, per diciamo agguantare la ripresa a un ritmo più sostenuto di quello che abbiamo attualmente, e ci sono tante cose che si possono fare a costo praticamente zero, ne cito una sopra tutti, è la semplificazione normativa burocratica del paese, che sulla quale ormai da decenni giriamo attorno, ma che in effetti non avanza. Ecco, visto che poi il giorno dopo ci sono state le dichiarazioni, anche l'articolo di Italia Futura che riassumeva in maniera molto sintetica, insomma, lei si sente rappresentato da Emma Marcegaglia o da Montezemolo? Ma o da tutti e due? Sicuramente mi sento rappresentato da Emma Marcegaglia, non condivido il senso delle dichiarazioni di Montezemolo. Ecco, ci aiuti a capire qual è la differenza, visto che appunto, come ricordavo, lei ha una lunga storia anche dentro la Confindustria, oltre che come imprenditore. La differenza qual è, se dovesse spiegarla a tutti gli ascoltatori, tra una critica e l'altra? Ma, cioè, qui il problema è che mi sembra che Emma Marcegaglia faccia delle critiche che vogliono essere degli stimoli per ritrovare un'operatività che negli ultimi tempi, come tutti vediamo, è venuta un po' a mancare. La critica di Montezemolo, quindi una critica operativa, una critica costruttiva, una critica per costruire il futuro. La critica di Montezemolo mi sembra abbastanza fine a se stessa, insomma, forse a qualche operazione politica che lui può avere in mente. E quindi lei dice, da un lato c'è un mondo delle imprese rappresentato dal presidente di Confindustria, Marcegaglia, che chiede al governo di agire all'interno della legittimità, se ho ben capito, ricevuta dalle elezioni e dalla maggioranza che ha, e dall'altra le dice invece c'è una dichiarazione che va più in una direzione politica. Non so se ha avuto modo di vedere le dichiarazioni di poco fa della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana. Il presidente Bagnasco ha detto, insomma, riforme subito, con l'Italia, con le riforme si sembra sempre di tornare al punto di partenza, un fisco equo per frenare l'impoverimento delle famiglie, e poi si è definito Bagnasco angustiato per l'Italia e per queste liti personali, denigrazione reciproca, declasse i problemi reali dell'urgenza del paese. Su queste dichiarazioni di Bagnasco? Ah, mi sembra che tocchi abbastanza il punto in maniera molto corretta. Quello che noi abbiamo bisogno in questo paese è di creare una speranza per il futuro dei nostri giovani, e questo lo possiamo fare solo se andiamo nella direzione di agguantare una ripresa con molta più decisione di quello che abbiamo adesso. Io le posso, dal mio punto di vista, al primo posto c'è la semplificazione normativa burocratica del paese. Le posso citare il caso di investimenti che non sono venuti in Italia di multinazionali, ma sono andati in altri paesi dell'Unione Europea, proprio perché in Italia i tempi di ottenimento dei permessi di qualunque tipo sono di anni e anni e anni. Io conosco un caso di un investimento nel fotovoltaico che è andato certamente non in un paese a basso costo del lavoro, è andato in Svizzera, nel Canton Ticino, solo perché per avere il via, la valutazione di impatto ambientale, in Italia non c'era speranza di averla in meno di 3 anni, nel Canton Ticino l'hanno avuta in 60 giorni. Ecco, questi sono i problemi veri del paese, i problemi sui quali si gioca il futuro e sui quali si può costruire la nostra ripresa a un tasso più alto dello 0,5 o dello 0,7. Ma mi scusi, Presidente Squinzi, secondo lei se queste riforme, come giustamente ricordava, sono a costo zero, perché la semplificazione burocratica costa niente, anzi fa risparmiare, perché, e devo dire che su questo probabilmente ci sarebbe anche un voto, non dico bipartisan, ma quasi, no? Non sono riforme a cui uno si può opporre, perché non vengono poste nell'agenda? Perché si parla di altri temi? Ma guardi che nell'agenda Confindustria è da tanto tempo che le mette. No, non di Confindustria, del governo. Parlo anche di Federchimica, già negli anni, all'inizio degli anni 90 noi facevamo dei convegni invitando tutti i politici a prendere questa posizione. Ricordo personalmente con il ministro, l'allora ministro Bassanini, che fu il primo che puntò sul discorso dello sportello unico, di avere fatto diversi incontri e di avere scambiato molte idee che lasciavano ben sperare. Poi, no, io mi riferivo all'agenda del governo, non alla vostra agenda. Tutto si è fermato perché appunto evidentemente per il governo in questo momento questa non è una priorità, perlomeno non sono riusciti a individuarla e a metterla in pratica. Ecco, su questo io vorrei capire se all'interno di tutto questo ragionamento non si esaurisce con questo, chiaramente, però un segnale non sia anche un tema su cui noi molto stiamo battendo, devo dire anche voi come Confindustria l'avete fatto, e ossia non cambierà il mondo, non cambierà le cose, non ci porterà tassi di crescita tedeschi, ma insomma magari un ministro dello sviluppo economico potrebbe avere qualche utilità. Continua infatti il nostro sondaggio, Presidente Squinzi, partecipi anche lei per sapere chi vorreste come ministro dello sviluppo economico, nomi realistici, nomi perseguibili, economisti, imprenditori, manager, politici, basta che perseguibili. Lei ha in mente un nome, Presidente Squinzi? Vorrei fare una provocazione. Dai. Abbiamo un grande manager che è disponibile da pochi giorni, perché non Alessandro Profumo? Come ministro dello sviluppo economico? Beh, sì. Devo dire che è stato anche votato assieme a tantissimi altri. Non posso svelare la classifica perché la sveleremo solo quando arriverà il ministro dello sviluppo economico, che manca da 6 giorni. Su questo, voglio dire, l'assenza di un ministro, lei se l'è spiegata? Perché insomma è strano che non avere un interlocutore. No, è difficile da comprendere. Vabbè, quindi, se ho ben capito, nessuna posizione politica, ma la richiesta, diciamo, di intervenire e andare a... Di riprendere ad operare con decisione. Perché la pazienza sta finendo anche per lei? Ma io sono molto in linea con la nostra Presidente e mi rimetto. Ho sentito poco fa che proprio ripetere i passi salienti dell'intervento di Genova, sono perfettamente in linea con lei. Grazie al Presidente di Federchimica e mi riferisco appunto a Giorgio Squinzi. Buonasera. Siamo veramente in chiusura, come sentite dalla sigla. Oggi il collegamento con Giuseppe Crosani non riusciamo a farlo. Alcuni si dispereranno, altri gioiranno, ma insomma Giuseppe è in collegamento da... e conduce da Roma. Per ora è tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.